Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Come ogni anno di questo periodo, gestori di strade, autostrade e utenti si trovano ad affrontare le prime precipitazioni nevose. E come ogni anno, il piano neve delinea procedure e comportamenti utili a garantire sicurezza e praticabilità delle strade anche di fronte ad eventi atmosferici eccezionali. Dal monitoraggio continuo delle previsioni del tempo alla comunicazione tempestiva delle condizioni di percorribilità, dalla programmazione di interventi tecnici alla verifica del traffico, il piano neve risponde a una pianificazione precisa, realizzata anche grazie all'intervento di forze dell'ordine, protezione civile e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ma anche gli utenti sono chiamati a fare la propria parte, utilizzando catene o pneumatici da neve, tenendo comportamenti basati sulla massima prudenza e rimanendo costantemente aggiornati sulla situazione delle strade. When we finally kiss goodnight. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, anche quest'anno è arrivato il piano neve, e cioè una serie di procedure che il mondo dei trasporti, grazie a delle indicazioni che arrivano dalle istituzioni, deve seguire in occasione in caso di precipitazioni nevose. Per cercare di capire quali sono queste indicazioni e cosa bisognerà fare in caso di precipitazioni, è nostro ospite il direttore centrale di esercizio di autostrade per l'Italia, l'ingegner Paolo Berti. Ingegnere, innanzitutto, in che cosa consiste questo piano neve? Il piano neve serve a stabilire quali sono tutte l'insieme delle azioni necessarie per garantire un'adeguata percorribilità sui nodi principali della rete italiana. Quindi l'attività principale sono la divisione della rete autostradale, in questo caso di Autostrade per l'Italia, in una serie di nodi. Questi nodi hanno più o meno probabilità di nevicate sul tratto, e su questi particolari nodi si fanno degli approntamenti tutti sulla viabilità. Quindi ad esempio in alcuni tratti viene introdotto l'uso obbligatorio di pneumatici invernali da un periodo ad un periodo. Viene adeguatamente dislocato sale, vengono adeguatamente dislocati mezzi operativi come rame, sgombraneve, spargisale, innaffiatrici e altri mezzi speciali. E poi ci sono tutta una serie di linee guida che ti permettono di fare un'escalation in base alla tipologia di nevicata o alle previsioni di nevicata più o meno lunghe, in maniera tale da garantire la pulizia, certo, del manto stradale. Ci sono dei sistemi di regolamento del traffico, in particolare verso l'autotrasporto, che è quello più soggetto ai problemi di neve, quindi viene limitato per un determinato periodo la percorribilità in mezzi superiori a 7 tonnellate e mezzo. Ecco, a proposito proprio di questo, quali sono i comportamenti che gli autotrasportatori devono seguire in occasione appunto di queste precipitazioni nevose? Prima di tutto che il mezzo sia in buone condizioni, nel senso che se è prevista neve bisogna arrivare a affrontare la nevicata in buone condizioni, quindi i pneumatici, fondamentale che siano pneumatici invernali, oppure l'utilizzo delle catene da neve, che queste siano a bordo e in caso ci si possa fermare in spazi che non sia chiaramente la corsia d'emergenza, dove è assolutamente vietato montare queste catene, è assolutamente pericoloso, ma ad esempio in area di servizio oppure nei parcheggi, piazzare queste catene per affrontare poi il tratto dove è prevista la nevicata. Certo, ecco, invece come vengono in aiuto le nuove tecnologie? La tecnologia è fondamentale sotto due punti di vista. Il primo punto di vista è sulla previsione. Più siamo accurati, più siamo precisi nelle previsioni, quindi radar, satelliti, più siamo in grado di determinare l'intensità e la durata della precipitazione, quindi informare meglio tutti i nostri clienti, sia diciamo leggeri sia i veicoli pesanti. Poi abbiamo un sistema molto ormai dotato sia di pannelli a messaggio variabile, sia di sonde che permette di determinare le temperature della pavimentazione, sia di informare attraverso i pannelli a messaggio variabile la situazione in atto in itinere. Poi le tecnologie arrivano con le app, ad esempio c'è l'app MyWayTrack che ti permette di avere in diretta e sul tuo cellulare le previsioni, l'evoluzione, a sapere quali sono le condizioni di quel tratto autostradale che stai affrontando, che cosa fare per evitare per esempio di arrivare su un filtro dove abbiamo interrotto la circolazione mezzi pesanti. Quindi diciamo che diciamo i canali per informarsi su quello che sta succedendo e sui comportamenti da seguire sono assolutamente tanti, compreso quello radiofonico probabilmente. Certo, siete voi, diciamo, l'informazione la distribuiamo capillarmente a tutti i principali broadcaster italiani. È fondamentale informarsi, perché la previsione, l'avvicinarsi di una precipitazione sono fenomeni che noi governiamo, e quindi cerchiamo di dare percorsi alternativi, di dare possibilità di utilizzare strade alternative. Che facciamo esempio, se ci sono delle nevicate in atto in A14, possiamo consigliare di utilizzare dei percorsi utilizzando la 1 e la 24, cioè, insomma, diamo anche soluzioni alternative al viaggio. Quindi viaggiare informati, diciamo, è la prima pietra per partire con un viaggio adeguato, ecco. A proposito di informazione e di sicurezza, voi fate anche parte di un organismo molto importante per la sicurezza, che è la Consulta per la Sicurezza Stradale, un organismo all'interno del quale tra l'altro sono presenti anche altre istituzioni, tra cui l'Albo degli Autotrasportatori, quindi il Ministero dei Trasporti. È forse una delle iniziative, diciamo, silenziose, non fortemente non pubblicizzata a dovere, ma che ha avuto, secondo me, un grandissimo riflesso su, diciamo, sulle condizioni di sicurezza della, per esempio, della rete autostradale italiana, in particolare nostra. Il fatto di avere un confronto diretto con Polizia Stradale, l'Associazione dei Consumatori, l'Albo degli Autotrasporti, il Quattro Ruote, diciamo, i principali stakeholder che si occupano di sicurezza stradale, ha permesso di avviare un confronto quotidiano con queste persone e di trovare le soluzioni più adeguate per far sì che infrastruttura, comportamenti e veicolo viaggiassero all'unisono con l'obiettivo di ridurre l'incidentalità. Autostrade per l'Italia negli ultimi 10 anni ha ridotto quasi 300 vittime ogni anno, il tasso di mortalità. Quindi, diciamo, abbiamo avuto, con questa capacità di unire sull'unico tavolo tutti gli stakeholders, la capacità di essere molto più efficaci nelle azioni, molto più mirati. E quindi devo dire a chi ha avuto l'idea di proporre questa soluzione, a coloro che hanno partecipato a questa consulta, di avere raggiunto, chiaramente con il contributo di tutti, veramente dei risultati eccezionali. Tenga conto che siamo livelli come tasso di mortalità ai livelli delle migliori autostrade europee. Tra l'altro, diciamo, proprio le autostrade italiane sono appunto a dei livelli di sicurezza che si avvicinano ai nuovi parametri europei, mentre il resto della viabilità purtroppo addirittura vede incrementare il numero di vittime della strada negli ultimi periodi. L'ultimo anno è stato un anno di pari e patta, nel senso che il numero di morti è rimasto più pressoché costante. Però questo in Italia. In autostrada si è raggiunto probabilmente l'anno top come più basso tasso di mortalità, quindi è stato l'anno, diciamo, più sicuro di tutto il resto degli ultimi 10 anni. Quindi vuol dire che in controtendenza il resto della rete è andato peggio. Certo, sempre a proposito di autotrasporto e del ruolo che può avere l'autotrasporto sul fronte della sicurezza, lei citava alcune iniziative telematiche, come ad esempio l'app MyWayTrack, ma ci sono anche progetti che puntano a coinvolgere gli autotrasportatori, che potrebbero diventare delle sentinelle sul fronte della sicurezza? Sì, noi, allora, a parte che l'autotrasporto è il nostro cliente principale, quello che, insomma, che ci dà il più grosso contributo a livello aziendale, nel senso, quindi sono il nostro principale cliente in tutte le varie sigle, chiaramente. È fondamentale l'azione di confronto quotidiano con loro, perché dagli incontri che 2 volte l'anno, 3 volte l'anno ci troviamo a fare, escono sempre soluzioni, idee. Una delle soluzioni che è nata negli ultimi incontri è che loro possono fare da sentinelle operative per noi, quindi segnalare preventivamente delle situazioni di pericolo, oppure situazioni anche dal punto di vista qualitativo di degrado, e possono in qualche maniera essere loro i nostri maggiori clienti, anche loro i nostri maggiori alleati in termini di prevenzione. Quindi questo è l'obiettivo. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli